Abbiamo creato questo avviso per manifestazioni di interesse per invece 25 nostri alloggi sul territorio metropolitano, da essere ristrutturati da imprese o enti del terzo settore per essere poi affittati a canone concordato a lavoratori e lavoratrici tramite la Fondazione Abitare. È stato oggetto di un percorso di confronto con le imprese del territorio, gli enti del terzo settore che le raggruppano all'interno del percorso di Club Pro, ma è appunto un avviso che adesso è aperto per raccogliere ulteriori feedback e sollecitazioni per costruire poi il bando con cui assegneremo questi 25 alloggi. Il meccanismo che noi immaginiamo è una concessione per 7 anni ai gruppi di imprese con un soggetto del terzo settore, anche tramite la fondazione, e quegli alloggi possono essere affittati con contratti a canone concordato transitorio per i lavoratori e le lavoratrici in arrivo in città per 18 mesi. Chiaramente l'avviso è aperto, quindi questo è lo schema che abbiamo immaginato noi. Il costo della ristrutturazione complessivo è di 400.000 euro. Le imprese possono fare domande per tutti quegli alloggi ricevendo punteggi premiali per quell'offerta o per una parte degli alloggi, quindi vedremo, diciamo, l'avviso è aperto fino al 16 gennaio.